milioni di euro ce li avete in tasca per comprarvi l'attaccante più forte al mondo. Mamma mia, mamma mia, mamma mia, qui è un massacro. È rimasto lì a godere fino a quando non ha ficcato il pallone nella porta sguarnita, quasi una cosa sessualmente vietata ai minori. Tutti convocati di Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti convocati, come sempre all'800240024 per parlare di ogni sport, perché questo è il vostro spazio libero per parlare di sport. Franco Piantarini, autore di questo programma, Fabio Cantadori in regia. Noi cominciamo da una storia che in questi giorni sta cominciando a un po' a marcire, in realtà, però è pur sempre una storia interessante di una mela marcita, di colpo. Scrive in punta di penna, ad esempio, oggi Luigi Garlando sulla Gazzetta dello Sport, storia da inverno post natalizio, aspettando una primavera che sarà anche, guarda caso, elettorale. Lontanissima, lontanissima, nonostante ci accusate sempre con le telefonate, con i messaggi 349-238-6666, beh, sempre no, qualche volta di fare politica, ma l'idea di fare politica è veramente dall'altra parte del globo per quanto ci riguarda. Anche perché nel calcio ce n'è anche troppo, e questo lo sapete bene, ma tra uno smoking a pallini e un pallone da Coppa Italia, che questa sera sarà partita vera tra Juventus e Milan, ci piace parlare ancora di questa storia di una mela marcita da inverno post natalizio, fermo restando che appunto questo è lo spazio delle vostre libere opinioni sportive. Tanto sentiamo questa storia. D'accordo, ok. Per il nostro progetto, per la nostra società, è stata una serata molto importante. Viviamo in un mondo cinico e lavoriamo in un ambiente di persone fortemente competitive. Tu mi completi. Voi sapete che Balotelli è un giocatore che io amo pazzamente, ma ci sono tanti lavori che non vanno a buon fine nella vita. Balotelli è uno di quelli. E se lei mette una mela marcia dentro lo spogliatoio, può infettare anche tutti gli altri. Balotelli è una persona che io non accetterei mai facesse parte dello spogliatoio del Milan. No, ma Balotelli è un fatto sentimentale, quindi Balotelli è sempre... Non commento le parole del presidente. L'unica cosa che posso dire è che è un patrimonio del calcio italiano e che credo che questi errori che ha fatto gli possano servire solamente per cercare di non sbagliare da qui in avanti. Dunque, abbiamo ripercorso un po' di tappe mentre leggo sui siti che il Milan ha un nuovo obiettivo, che non è Mario Balotelli ma Saponara dell'Empoli, giocatore che non conosco, vi dico la verità. Noi invece abbiamo in linea il protagonista di questa storia. Mario Balotelli, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Come stai? Hai fatto ancora botte con Mancini? Ma no, perché cioè, alla fine la storia con Mancini è stata un po' un casino. Cioè, diciamo che è stato un casino che ha messo su lui, perché cioè, l'altra volta mi si è incazzato. Sì. È incazzato, sì, perché alla fine, cioè, è successo un macello, perché lui dice che non è uscito niente sui giornali, te lo dico così, cioè proprio da persona a persona, da amico a amico, cioè sì. Praticamente la moglie di Mancini era incinta, sì. Nessuno l'ha scoperto, il problema è che il bambino che è uscito fuori, cioè quando è uscito, aveva una maglietta con scritto Why Always Me, quindi... E quindi gli è venuto qualche dubbio. Senti, ma se tu sei una mela marcia, Cassano cos'è? Che ne so, cioè, alla fine è vero, cioè, io posso anche essere una mela marcia. Però, tu sei una mela marcia? Ma che ne so, cioè, non lo so, cioè, alla fine, cioè, Cassano, se io sono una mela marcia, Cassano, cioè, è lui che mi ha insegnato tante cose. Per me è un padre, cioè, cioè facevamo tutti i casini in nazionale assieme, cioè andavamo a fare un macello negli spogliatoi, cioè l'europeo mi abbiamo combinato di cotte di crude, cioè alla fine lui al Milan c'è andato, non capisco perché io non ci posso andare. Why always me? Cosa ci vuoi fare? Magari si potrebbe ipotizzare uno scambio con Niang, che mi sembra un tuo degno erede, almeno per le cagate che fa in giro per la città. Magari non se ne accorge nessuno di questo scambio. No, perché alla fine magari lui fa finta di essere Balotelli. Esatto. Tu fai finta di essere Niang. Hai fatto finta di essere Niang. Può funzionare. Senti, ma quante volte sei andato al night questa settimana? Quante volte sei andato al night questa settimana? Ma non so, cioè, forse 4-5, non so. Si è divertito? Uno si diverte, cioè, alla fine è importante che poi uno, cioè sono giovane, no? È giusto divertirsi con queste cose qua. Sì, posso venire una volta? Quando vuoi, cioè, vieni a Manchester, facciamo una cosa, ti vengo a prendere all'aeroporto. Va bene. Ti porto in giro per Manchester a fare un po' di casino. Va bene. Andiamo a scoppiare un po' di petardi, un po' di botti, far spaventare due o tre vecchie. Poi poi facciamo un po' di casino. Andiamo a night, facciamo le 5 o le 6. Sì. Però non so se mi reggi tu. Non so se mi reggi tu. È una bella sfida, caro Alessandro Eraci alias Mario Balotelli. Senti, Mario Balotelli, ti faccio ancora una domanda. Ma secondo te fare bu a un neger è reato o no, come dice il sindaco di Corbetta? Tu che sei un neger. Per me è una cosa schifosa, per me è reato, sì, cioè, dovrebbero metterli tutti in galera, cioè, alla fine, cioè, come si permettono, cioè, dovrebbero metterli in galera tutti e altro che, cioè, io poi tra l'altro, cioè, alla fine... Cioè, non capisco perché, ce l'hanno sempre anche con me, cioè, fanno tutte queste cose qua anche a me. Cioè, why you always me? Cioè, gli ho detto poi anche ai tifosi, cioè, non devo fare queste cose. Cioè, se succede a me, li vado a prendere tutti a casa, gli spacco tutti di a corna e, cioè, gli rimeno tutti, altro che, cioè, io non sospendo la partita. Li vengo a prendere tutti a casa, direttamente. Posso dare i loro indirizzi e gli spacco tutti. Naturalmente avete capito, abbiamo scherzato. È bravissimo Alessandro Eraci, alias Mario Balotelli. Fammi sentire la tua voce vera. Ciao Carlo, ciao a tutti i radioascoltatori, buongiorno a tutti, eccoci qua. Senti, la mia voce vera è questa e non ovviamente quella di Balotelli. Ma tu Balotelli al Milan, fossi milanista, cosa che non so, lo prenderesti o no? Ma guarda, ti dico la verità, in questo momento Balotelli secondo me è un po' una mina vagante, hai visto anche tutto quello che combina da un po' di tempo a questa parte. Fossi il Milan, non so, sai, le scommesse a volte pagano, a volte no. Vedo l'Inter che comunque recentemente ha scommesso su Cassano e comunque non gli è andata malissimo. Dipende, certo è una mela abbastanza marcia, come dice Berlusconi, anche se insomma non è facile provare magari a scommettere su uno che comunque alla fine è giovane, perché è del 90, quindi... Potrebbe essere una scommessa giusta nell'ambiente giusto. Io ci scommetterei ad occhi chiusi. Il problema è che a Milano, come dicono a Milano, manca la moneda. Esatto, mi sembra che il problema, grosso modo, al di là delle mele, marce o non marce, sia quello. Grazie Alessandro Eraci, degli autogol. Bravissimo. Grazie a tutti, grazie. Ecco che torniamo, 800 24 00 24, il numero verde per intervenire, messaggio SMS 349 238 6666, Alessandro Eraci che abbiamo sentito prima alias Mario Balotelli si becca un bravissimo da Giorgio da Parma, ci siamo divertiti un po', poi vorrei parlare anche di altre cose, però di smoking a pallini, di una Lazio che sembra... irresistibile a tratti, anzi abbiamo una dichiarazione di Petkovic ieri dopo la vittoria sul Catania che manda la Lazio non so secondo posto in classifica ma anche in semifinale di Coppa Italia, e Petkovic si dimostra una persona, un allenatore interessante. Ma questo mi piace, quando alla fine della partita non si sa come abbiamo giocato, in che formazione. Come ha giocato? Perché abbiamo iniziato con tre dietro, dopo girato 4-4-1-1 e alla fine siamo tornati di nuovo a tre, ma sicuramente Flocari ha fatto una bellissima partita e ha meritato questa occasione che probabilmente ha sfruttato. Nessuno capisce come giochiamo, questo è il nostro segreto. In realtà la Lazio a me sembra una squadra con le idee estremamente chiare, mi sembra una squadra estremamente solida anche nella sua direzione, solida come il suo leader Massimo Miroslav Klose, e pragmatica anche al di là delle alchimie tattiche come Petkovic. Primo ascoltatore Virgilio da Piacenza, 800 24 00 24 per parlare di sport, quello che volete. Non so, Virgilio. Buongiorno. Buongiorno. Dica. Complimenti per l'intervista, molto divertente. Grazie. Ascolti, no, collegandomi a Di Balotelli. Sì. Io è un gran bel giocatore, però io non lo prenderei neanche nazionale. Lo lascerei direttamente a casa. Lo lascerebbe direttamente a casa? Io sento abbastanza male, disturbato. Cioè, lei non lo convocherebbe nemmeno in nazionale, eh? Uno che si porta così a casa. A me sembra che in nazionale agli europei si sia comportato non malissimo. Sì, ma come ci comporta in generale? Io credo che sia un giocatore che aveva bisogno di essere responsabilizzato per crescere. Credo che il Manchester City non sia l'ambiente ideale per far crescere un giocatore come Balotelli. La concorrenza è agguerritissima, i rapporti con Mancini ormai sono estremamente tesi, dunque non credo che sia l'ambiente ideale per farci vedere cosa può essere o può diventare Mario Balotelli. Credo che abbia bisogno di giocare con continuità, però non so in quanti, credo in pochi o forse nessuno, abbia i quattrini per andare a pagargli un ingaggio che è elevatissimo. Andrea da Caserta, buongiorno. Buongiorno. No, volevo intervenire per quanto riguarda Balotelli e quello che ha espresso il presidente Berlusconi. È vero che... Senta, posso farle sentire invece, visto che chiama da Caserta, un allenatore, sì. Non so, è tifoso del Napoli lei? No, assolutamente, della Roma, fa niente. Sì, però le faccio sentire cosa ha detto Mazzarri oggi a proposito di Balotelli. Non lo conosco direttamente, però da quello che ho parlato una volta, un paio d'anni fa, che lo volevamo prendere, lo incontrai in un albergo di, mi sembra, Sorrento. A me mi ha fatto anche una buona impressione, però sai, chi l'allena sa bene cosa poi, quali eventuali problemi crea. Comunque un po' di esperienza ce l'ho e un talento del genere sarebbe stimolante allenarlo, insomma, da parte mia. Poi non lo so come potrebbe andare a finire, insomma. Immaginatevi Balotelli e Cavani messi insieme, posto che Mino Raiola ha detto che uno su queste cose abbastanza attendibile, ha detto vedrete che qualcuno spunterà con il grano richiesto da De Laurentiis in mano e si porterà via Cavani, così i tifosi del Napoli saranno contenti. Andrea da Caserta, dica veloce, che ho un ospite in linea. Berlusconi sulle mele marce, però detto da Berlusconi riguardo le mele marce sulla moralità è un po', come dire, da prendere con le molle o con le pinze il suo giudizio. Sì. Quindi, cioè lei vuole buttarla in politica? No, la politica ormai c'entra in tutto, siamo in campagna elettorale, quindi appunto. Detto da Berlusconi mela marcia è un po' un azzardo, giudicare Balotelli. Se vuole buttarla in politica, poi ci sono tutte le regole a par condicio che io naturalmente non conosco, quindi diventa tutto un casino, lasciamo stare, preferisco questo messaggio: il Milan vuole un talento come Balotelli ma col carattere di Baresi, c'è altro, la pace nel mondo. Io saluto e ringrazio un grande del Milan come Giovanni Lodetti. Ciao Giovanni. Ciao e buongiorno a tutti. Ma tu correresti per Balotelli? No, ma io ho sempre corso per me stesso, lascialo stare Balotelli, che non ha bisogno di correre per lui, però bisogna correre per altre cose nei suoi confronti, insomma. Cioè? Lo lascerei dov'è. Lo lasceresti dov'è? Sì. Cioè bisogna correre dietro col bastone? Ma non lo so, insomma, io credo che non avendolo salvato Mancini, credo che ci sia poco da fare. Rispetto al calciatore, però non è così che si fa lo sport. Sì, però il Milan è andato a prendere anche uno come Cassano che non è che fosse fosse uno semplice. Difatti poi alla fine ha avuto un bel ritorno, nel senso che sì, ha fatto dei risultati, però quando se n'è andato ha detto così che lui ha sempre giocato con la mente all'Inter. Dunque credo che questo non faccia bene allo sport, no? Ma sai come sono i giocatori, no? Baciano una maglietta, baciano mille magliette, poi... E allora, dato che tutti baciano qualcosa, io per lui non corro, dai. Senti, io non voglio buttarlo in politica, l'ho detto mille volte, però è un momento particolare, siamo in tempo elettorale, il Milan una volta comprava, adesso vende. Sì, diciamo così che forse non soltanto il Milan, ma tante altre squadre abbiamo vissuto troppo nello spreco, abbiamo pensato che tutto potesse andare in un certo modo, invece non è così, ma è un po' come tutta la società, insomma, abbiamo speso troppo e adesso non ne abbiamo più. Però credo che qualche cosa bisogna in ogni caso salvare, perché il Milan è sempre il Milan, ha un'immagine importantissima, ha tantissimi tifosi e la gente è un po' sconcertata da questo fatto, perché ci si può anche sacrificare, però bisogna mantenere anche un assetto di squadra importante. Io penso un po', dico che Balotelli del Sharawi potrebbe essere la coppia d'attacco dell'Italia ai mondiali. Sì, potrebbe essere, no, ma io prima ho detto che di nuovo a Balotelli, perché secondo me, insomma, sono quei giocatori che effettivamente possono fare la differenza, che poi tra l'altro devo essere anche sincero, né? Perché si parla tanto di Balotelli come fuori classe, come questo e quell'altro, ma finora effettivamente non è che abbia fatto delle cose in cui va considerato come un fenomeno, ecco, sotto questo punto di vista. Poi è giovane, è interessante, è forte, in gamba dal punto di vista sportivo, però insomma io credo che insomma bisogna che ci diamo una regolata, perché anche questi giocatori qua che si possono permettere certe cose, credo che non sia giusto. Poi la coppia potrebbe essere interessante, l'hanno fatta anche mi pare nell'Under 21, ma però è sempre comunque a rischio. Senti Giovanni, ma questa storia di Berlusconi che non vuole più Allegri, questo Allegri sempre appeso sul filo del rasoio e dipende dai risultati e vediamo... c'è mai stato un allenatore che gli è stato più sullo stomaco, forse neanche Zaccheroni, eppure Allegri vince uno scudetto, ne perde un altro perché di fatto l'ha perso, gli disfano la squadra, e non mi riferisco solo a Thiago Silva e Ibrahimovic, ma a tutta la spina dorsale dei Seedorf e di quelli che di Innesta e di quelli che hanno fatto la storia recente del Milan. È chiaro che la classifica piange perché i punti sono pochi e la squadra vale più di quei punti, però metterlo in croce ogni volta mi sembra un po' ingiusto. Ma io credo che non sia giusto, anche perché come hai detto tu, non è stata, diciamo così, sfoltita la rosa, ma è stata completamente disfatta. E poi naturalmente non ci sono stati gli inserimenti dovuti a cambiare un po' anche dal punto di vista sì giovane, ma con un certo carisma, con una certa forza. E meno male che ci sono stati questi due giovani che li hanno tirato fuori, sia De Sciglio che Sciarali, però sarebbe stato ancora peggio. Credo che Allegri può avere i suoi difetti, come tutti noi, le sue colpe, però credo che stia facendo, con quello che ha a disposizione in questo momento qua, stia facendo bene. C'è stata una partenza decisamente sbagliata, ma questo dovuto non certamente a lui, ma a tanti inserimenti nuovi e abbiamo pagato dazio. Però credo che insomma dare sempre la colpa all'allenatore non è giusto. Anche se avrei voluto vedere questo Milan giocare in modo un po' più proletario, forse avrei voluto vedere giocare questo Milan in modo un po' più provinciale, una parola che piace molto a Stramaccioni. Ma il provinciale, le squadre non è che si possono inventare da un momento all'altro, è chiaro che dare la mentalità al Milan di diventare provinciale non è tanto semplice e facile. Il Milan pensa sempre di essere una grande squadra, giustamente, però è altrettanto vero che qualche volta si verifica che la grande squadra non c'è, dunque non è semplice, ci vuole un attimo di pazienza, però bisogna anche pensare che le grandi squadre sono fatte di grandi giocatori e questi grandi giocatori che se ne vanno tutti insieme non è facile sostituirli, ma questo l'abbiamo detto tutti e lo vedono ogni giorno. Il Milan in questo momento qui ha bisogno di essere provinciale dal punto di vista della corsa, questo manca, perché anche il primo tempo di domenica è una cosa piuttosto... Hai ragione, Hai ragione, ecco. Hai ragione. Comunque tu per Balotelli non correresti, non no. Se ne parla neanche. Ma non se ne parla neanche, anche perché, ripeto, io ho corso solo per me e dicono per Rivera. Ma quando tu hai un giocatore come Rivera, la palla dalla sempre a lui, come metterla in banca, no? Grazie, Giovanni. Grazie a voi. Un abbraccio, Giovanni. Buona giornata, un abbraccio giornata. A voi. 800-24-00-24 per dire la vostra. Maurizio da Parma, poi ci fermiamo un attimo. Pronto? Pronto. Buongiorno dottor Genta, sarò buongiorno. Rapidissimo. Volevo collegarmi alla considerazione in merito a Balotelli, che ha fatto quel signore lì, proprio veloce, al signore di prima, non ricordo il nome, che il signor Balotelli dall'età di 18-19 anni a oggi non è migliorato in nulla a livello tecnico, per quello che si vede. Ha solo messo su massa muscolare e potenza fisica, ci mancherebbe almeno quello. E quindi questo qua si va probabilmente a rilegare anche un discorso caratteriale. Ma volevo chiederle soprattutto un'altra cosa. Il caso Snyder, secondo lei, non ci guadagnerebbero tutti se facessero un'idea del genere? Lo rimettiamo in campo, lo facciamo giocare, lo rivalorizziamo, a fine anno lo vendiamo, quindi l'Inter recupera magari qualcosa sul piano tecnico, sull'assestamento della squadra, lo rivende a un prezzo magari un pochino più accettabile, il giocatore trova l'ingaggio. Caro Maurizio, questa è la ricetta dell'acqua calda, è da quando è venuto fuori questo caso che diciamo che è stato gestito nel modo peggiore, ma da entrambe le parti e per entrambe le parti, contro l'interesse di entrambe le parti. Adesso probabilmente andrà al Galatasaray, quindi un po' ai confini dell'impero, per pare 10 milioni di euro. Dicono che ci sia già l'accordo con l'Inter, vediamo se Snyder accetta. Ci fermiamo per la borsa dopo. Ma tu correresti per Balotelli? No, no, ma io ho sempre corso per me stesso, lascialo stare Balotelli. Siamo tornati e ci becchiamo questo. Parla di sport e lascia stare il Milan e Berlusconi, idiota. Grazie a questo ascoltatore anonimo. Parliamone di sport, di tutto lo sport che volete, ve lo dico tutti i giorni. Parliamo non volete parlare di calcio, parliamo di un'altra cosa. Questo è uno spazio libero. Se poi voi insistete, siete anche maliziosi, io cosa ci posso fare? Sono qui per rispondervi. 800 24 00 24, numero verde. Marco da Roma, buongiorno. Buongiorno, io volevo fare tre suggerimenti. Sì, magari. La prima, che non so, forse Balotelli sarebbe il caso che ritornasse in Italia. Sì. E a giocare nell'Inter, magari. Vedrei bene la coppia Balotelli-Cassano, e anche perché credo che abbia ancora bisogno dei genitori. È una cosa, sì, perché per maturare forse abbia bisogno dei genitori. Chi lo la paga? Seconda, chi lo paga? Inter, secondo me Ranocchia non è buono per l'Inter. Come centrale è troppo lento e tutti i gol quando c'è lui vengono sempre dalla sua parte. Non sono d'accordo. Vabbè, sulla seconda, secondo me Ranocchia a me è un giocatore che piace, e poi devo dire che Samuel, che tra l'altro si è infortunato, quindi ha un problema al tendine se non ricordo male, quindi in dubbio per la partita di domenica. Samuel è uno di quei giocatori che ti cambiano la vita difensiva, come lo era Nesta ai suoi tempi, come era Baresi. Insomma, anche Ranocchia non mi sembra così scarso come lei dice. Ma la terza cosa, posso dirlo, la terza? Ma certo, siamo qua apposta. Credo che ultimamente l'Inter e Branca Ausilio non riescono a prendere dei giocatori buoni. Credo forse sia il caso di sostituirli, non so lei che ne pensa. Che le campagne acquisti recenti dell'Inter non siano state un granché, però c'è austerity, c'è grande... Ma guardiamo per esempio la Roma, ultimamente ha preso tutti ottimi giocatori a un prezzo insomma, buono, no? Sì, no, ma le accuse alla dirigenza dell'Inter, al fatto che uno dei grandi mali dell'Inter sia stata la partenza non solo di Mourinho ma anche di Oriali, tutte queste cose sono argomenti che abbiamo già trattato a lungo, quindi è chiaro che rifare una squadra e rifarla con pochi denari è un'impresa non semplice. Poi di giocatori abbastanza sbagliati ne sono arrivati, ne è arrivato qualcuno all'Inter. Qui che entra la capacità poi dei dirigenti, no? Certo, su questo non c'è dubbio. Grazie, okay, grazie, buona giornata. Grazie, buona giornata. Vorrei invece andare in Spagna da Filippo Maria Ricci, corrispondente della Gazzetta dello Sport, che oggi scrive un fondo questioni di stile. lo spirito libero di Guardiola si vede già dal maglione grigio. Allora, Marchionne ha quello blu, Mino Raiola va a firmare il contratto di Ibrahimovic, questa è leggenda nella sede della Juventus e davanti a Moggi in Bermuda, e invece Guardiola è in maglione grigio. Ciao Filippo. Buon pomeriggio e buon anno. Allora? Allora, interessante. Era un po', no, accanto c'era il marchese del Bosco vestito un po' come un pranzo di gala delle Poste, così, insomma, con questa sua eleganza un po' dubbiosa, e lui, però, almeno questo, ovviamente stiamo parlando della conferenza stampa, decide di presentarsi in conferenza stampa vestito come, io l'ho definito, uno splendido 41enne, perché non è a 40, neanche 41, comunque uno splendido quarantenne, e fa il paio con, cioè, io lo vedo molto pop star in questo momento, Pep Guardiola. D'altra parte, lui a Zurigo è andato per conto suo, cioè non è impiegato di nessuno, l'immagine è veramente la sua, non è che stava rappresentando il Barça. È vero che anche l'anno scorso, quando poi rappresentava il Barça, si era presentato con un collo alto che era un pochino, se vogliamo, meno audace del maglioncino dell'altro giorno, però lui stava molto bene e probabilmente si sente a gusto così. C'è un video bellissimo dell'arrivo di Guardiola, del ritorno dalle vacanze, beccato all'aeroporto di Barcellona. Io oggi ho detto sembrava più Chris Martin, no? che è una rockstar, un allenatore di calcio. Sì, gli piace, adesso sta a New York, vive a Manhattan, si può permettere anche bei vestiti, si veste così, si sente molto pop star. Allora, ieri mi ha mandato via Twitter, a proposito vi invito anche ad interagire con noi con Twitter, mi ha mandato un messaggio, una gentile signora o signorina, scrivendo: Messi non meritava di ritirare il pallone d'oro solo per lo smoking che indossava. Questo guardaroba è tristissimo. È preparatissima per tutti i funerali in tutte le stagioni. Questa potrebbe essere carina però, eh? Nera. Nera. Via. Il top nero. Potrebbe essere carino, però è nero. Via. Basta questa tortura al mio guardaroba. Il bidone, no, direi che quelli torturati siamo noi a vedere sta tristezza, eh. Ma come ti vesti? Io invece dico, caro Filippo Maria Ricci, che lo smoking orrendo del fenomeno Lionel Messi era intonato al valore della manifestazione di un pallone d'oro che è diventato una pagliacciata. E poi c'è la citazione, dai, c'è quella bellissima foto di Diego Maradona a braccetto con Claudia Villafane, fasciata da un vestitino rosso altrettanto orrendo. Maradona aveva lo stesso vestito di Messi, però Maradona, che è veramente un genio, lì si vede forse la grandezza di Diego, sotto ci aveva messo una camicia bianca a pois neri, con cravatta bianca a pois neri. E allora pensa tu, capito? Poi Diego, capito, col suo fisico già rotondo, perché non era nel massimo della forma, e accanto questo bucconcino che era sua moglie, col capello pagliettieno e il vestitino rosso che la fasciava, era una coppia veramente. Erano anche altri anni. Sì, negli anni 90, anni 90 o tardo 80, ma non è più 90. Più 90, sì. Adesso mi resta solo un dubbio, siccome poi il vestito di Messi era firmato, non so se questa citazione poi è casuale, come è arrivata, se l'hanno fatta apposta, perché insomma, se l'hanno fatta apposta c'è del genio, insomma, presentarsi al trofeo vestito come Maradona, non è male. Io voglio chiedere invece un parere a uno che nel campo della moda ci lavora, che si è inventato un marchio che ha un nome straordinario, Barboni di Lusso, mio amico Paolo Atti, da Finale Emilia. Ciao Paolo. Ciao, che piacere essere ancora con voi. È piacere nostro. Senti, ma Guardiola, l'hai vista quella foto? Maglioncino grigio, maglietta rossa sotto, stile Barbone di Lusso. Molto, molto, molto di lusso. Diciamo che Guardiola è un Barbone di Lusso umano, che ha in questo momento abbastanza tempo per pensare e scegliere dei bei colori, anche se penso e sono quasi sicuro che il grigio associato al rosso sia il preludio di un nero associato al rosso in un breve futuro, poi non lo so. Vabbè, tu sei avanti, tu sei avanti. Mentre lo smoking di Messi, tu gli avresti dato il pallone d'oro con quel vestito? Guarda, Messi è un barbone di lusso divino. Ah, è un barbone di lusso divino. e quindi come parlammo, io ricordo bene la prima telefonata in diretta con te, sì. Parlavamo di Diego, sì. Un altro divino, possiamo dire che Messi, io gli avrei dato quello che aveva addosso, perché quello che decide Messi come divinità noi non possiamo nemmeno da supremi contestarlo. Va bene Paolo, ti ringrazio, ti aspetto presto, Ci vediamo presto Carlo, grazie a voi. Grazie, grazie a Paolo Atti. Hai sentito Filippo? Ma chiaro, poi ti dico, non era proprio rosso, era una sfumatura di rosso, secondo me ci stava abbastanza però, bene invece. Però senti, parliamo un attimo del pallone d'oro, perché vabbè che non esce dalla cerchia. No, dalla cerchia delle mura, non solo dai confini spagnoli, non solo dalla cerchia delle mura di Barcellona, ma neanche dal cortile della casa di Messi. Cioè, è ormai un premio che non ha alcun significato se, lo dicevamo ieri, non rispetti quantomeno l'assioma per cui devi essere il più grande in una squadra che ha vinto. La Spagna, si è portata a casa l'Europa e il mondo, non ha avuto uno straccio di palloncino d'oro, nemmeno quelli di Natale. No, ma quello scandaloso per me non è questo del 2012, quello scandaloso è quello del 2010. Cioè la Spagna vince il suo primo mondiale, è in una forma strepitosa, Messi non combina niente e gli danno il pallone d'oro. Cioè è quello scandaloso è quello del 2010. Questo qua, vuoi per i 91 gol, vuoi comunque per la sua diciamo grande potenza, non ci può, diciamo, non dico che ci poteva fare, però insomma comunque Messi ha fatto, lui dice che non ha avuto una grande annata, pensa quando avrà una grande annata, però il concetto che deve rimanere legato alle vittorie per me è fondamentale, cioè se lo sleghi dalle vittorie allora dai il premio al miglior calciatore. Allora possiamo dargli i prossimi 10, adesso ha 25 anni, da qui a 35 ci leviamo il pensiero una volta sola, glieli mandiamo a casa con un camion e festa finita. Esatto, no? Io ho detto, e quindi gli dice a suo figlio, io già ho segnato nella mia rubrica video che stavo per la gazzetta, il Ligantropo, ho già segnato quello del 2020, quant'era? 2032 mi sembra, ho già segnato al piccolo Tiago Messi, dopo gli vince suo figlio, no? Quindi il discorso si chiude per un po'. Adesso a parte gli scherzi, per me ti dico, il peccato capitale avviene nel 2010, nel 2010 che Stugana rovina questo premio, sì, è vero. Comunque cioè, la Spagna che vince il mondiale, tra l'altro cioè, voglio, tu devi anche pensare, la Spagna ha vinto solo un pallone d'oro con Suarez, sì. Molto ridere. In linea di massima 2-3 giocatori che potrebbero metterlo sulla mensola del bagno ce li hanno e soprattutto adesso non dico Raul che magari gli è andata male perché c'era qualcuno che lo meritava di più, va bene, però insomma adesso che un Xavi o un Iniesta non abbiano ancora vinto il pallone d'oro mi sembra assurdo, però ormai è andata, non so se c'è un comunicato della FIFA e di France Football che secondo me ha fatto un errore gravissimo nel vendere il suo premio alla FIFA, comunque questo è un altro discorso, o c'è un comunicato in cui si dice beh adesso cambiamo le regole, si premia, bisogna aver vinto qualcosa di significativo per vincerlo, per aggiudicarsi il premio, oppure andremo avanti così ad libitum, non lo so insomma, va bene, a parlare degli smoking di Messi, grazie Filippo, un abbraccio, ciao. Allora c'è un'altra votazione in ballo che per un argomento più interessante negli Stati Uniti, si tratta di scegliere il quintetto degli All-Star Game, ci sono Bargnani e Gallinari ancora in ballo, intanto ne approfitto per darvi i risultati della notte che sono questi: Minnesota-Atlanta 108-103, Milwaukee-Phoenix 108-99, Houston-Lakers 125-112, quindi un'altra bella pettinata per Los Angeles, Philadelphia-Brooklyn 89-109, Indiana-Miami 87-77. Ma sentiamo come si vota per Bargnani e Bellinelli. Gallinari dentro! Miracolo di Danilo Gallinari al secondo overtime! Gives it to Andrea Bargnani, deep three! Oh! Andrea Bargnani's got 38, he's exploded in the fourth! Per vedere il Gallo e il Mago all'All-Star Game di Houston, vota su allstarballot.nba.com. Cosa stai aspettando? Messaggio tristissimo. Agenta, parlare un po' di calcio giocato, magari di Coppa Italia no. Ma no, amore, di Coppa Italia magari parliamo domani, c'è Milan, c'è Juventus Milan, insomma, sinceramente parlare di Coppa Italia mi mette una tristezza. Mette una tristezza quasi paragonabile allo smoking di Messi. Pasquale, provincia di Caserta, 800240024 è il vostro numero verde. Buongiorno Pasquale. Salve, buon pomeriggio. Senta, io volevo solamente fare un bocca al lupo alla mia squadra del cuore. Io sono un appassionato di basket, sono tifoso della Juve Caserta, che domenica prossima ha mille difficoltà economiche, con soli 8 giocatori centroamericani, e non sappiamo quando si finiamo il campionato, andremo a giocarci l'accesso alla Final Eight di Coppa Italia con Reggio Emilia. Sì. Magari nella speranza. Io mi unisco all'applauso, però io mi unisco all'applauso, ma la chiave sta, non sappiamo neanche se finiamo il campionato, e questa è la chiave nera. Il buco nero del basket italiano. Io a Caserta, insomma, per Caserta mi alzo in piedi ad applaudire, per Caserta, per Pino Sacripanti, per tutti gli allenatori che in questi anni hanno gestito situazioni impossibili, dove non c'erano quattrini, dove i giocatori non venivano pagati, dove si aspettava di raggiungere la salvezza e poi si smobilitava la squadra per risparmiare 4 lire. È una situazione della pallacanestro italiana ingestibile, e con tutto il bene che voglio a Caserta, mi auguro che vada alle Final Eight, lo merita certamente più della Milano dei Paperoni, lo merita certamente più di molte altre, però la pallacanestro italiana che nel cuore mi sta viaggia sempre con questo tarlo, questa zavorra al collo. Stefano Modena, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io volevo uscire un po' dal coro, perché mi sembra che si parli sempre solo di esca dal squadra. Coro tutte le volte che vuole. Io bene, invito tutti a uscire dal coro. Secondo me lo sport è anche un po' di educazione, oltre che un po' di, come devo dire, di unire le persone. Quelli che giocano a tennis, quelli che fanno sport singoli, dove una persona come Errani, che è alta 1,60, che tutti reputavano il brutto anatroccolo, è diventato numero 6 del mondo e guadagna quantità di soldi importanti in quel settore, forse anche di più. Non sarebbe un esempio più da seguire sullo sforzo personale rispetto a tutti questi calciatori, giocatori da canestro, di pallavolo, che quando perdono perde la squadra, quando vincono vincono loro? Noi abbiamo bisogno di un po', non dico di eroi, ma di gente un po' che si mette in prima persona davanti e che guadagni sulla propria pelle, non sulla squadra o sull'allenatore. Beh, che non ti fa, Stefano, giocare. Però, ho capito, però lì è questione di gusti, e di tipo di sport, di tipologia di sport. Ci sono gli sport di squadra, ci sono gli sport individuali. Il tennis è uno magnifico di questi. Peraltro, così mi dà l'occasione per lanciare la pallina a Stefano Melocaro da Sky. Ciao Stefano. Eccoci Carlo, buongiorno. Beh, però c'è del vero in quello che dice l'amico, volendo tirare un po' di acqua al nostro mulino. Però, sai, abbiamo bisogno certamente di personaggi nel tennis, abbiamo bisogno di superstar che mi sembra non ci siano in questo momento, e mi dispiace molto perché è vero, guardare il tabellone del prossimo torneo di australiano, del prossimo US Australian Open, per capire che dove sono finiti. Parli delle superstar? Esatto. Ma italiche o mondiali? Dici tu? Ma sai, mondiali abbiamo quei tre, punto e basta. Che però secondo me lo spread è ampissimo. Lo spread tra i primi tre e gli altri, ancora quelli che li seguono direttamente in classifica, i primi tre o quattro dopo i primi tre. Ma francamente io non vedo come dare più del 4-5% massimo di possibilità a uno che non sia uno dei primi tre per vincere il torneo. Questo sì. Sono loro sicuramente. Sì, è un campionato già segnato come quello di calcio italiano, di calcio spagnolo, eccetera. Ogni grande torneo insomma non esce da questi tre favoriti. È un male da un punto di vista forse spettacolare, no? Perché diciamo che sarebbe più bello avere più pretendenti, ma è anche vero che molto del successo che il tennis ha ritrovato negli ultimi anni è stato dato proprio dalla grande riconoscibilità che il tennis ha avuto, grazie soprattutto prima al duopolio Federer-Nadal e poi insomma agli altri che si sono inseriti come Djokovic e ultimamente Murray, no? Cioè la gente ha riconosciuto il tennis anche perché diceva ah ok, vince o quello bello che non suda mai o quello che sembra un videogame, quello spagnolo con la canottiera, per cui questo da un punto di vista poi del recupero di immagine del tennis ha contribuito molto. Certo, se arrivasse qualche altro non sarebbe malaccio, ma diciamo all'orizzonte non se ne vedono e francamente è molto difficile pensare che oggi venga fuori un ragazzino di 19-20 anni sconosciuto sì. E vinca in Australia. Sì, sì, sì. Intanto le notizie della notte dicono che Errani e Vinci sono state eliminate dal torneo di Sydney di preparazione agli Open d'Australia, mentre vince Seppi che ha superato il secondo turno battendo Millman. Vuol sì, dire qualcosa Milman tutto questo o no? Tra l'altro Seppi gioca contro Granollers, che è quello che ha battuto Fognini. Fognini che a suo modo aveva anche lui giocato un'ottima partita perché aveva battuto al primo turno Dimitrov, no? Il bulgaro che si fidanza con tutte le tenniste perché lo danno fidanzato una volta al mese con una delle migliori. Beato adesso lui. L'ultima è pare Sharapova. Beato lui. Che peraltro è l'emulo di Federer, sai, è quello che ricorda Federer nelle movenze, no? Perciò tutti dicono che possa diventarne l'erede. Per il momento ne è un imitatore, poi dopo magari... Per il momento ne è un imitatore, hai detto? Sì, sì, ne è un imitatore perché vederlo giocare, la mossa, hai capito? Ricorda un po' quella di Federer, la scioltezza nei movimenti, un certo modo di non è che si spaccia per Federer nel portarsi a casa le tenniste? Sì. Però, no, è anche molto bravo ed è una promessa, è anche molto giovane, però diciamo che sta diventando famoso anche per altri motivi, ecco. Lo dobbiamo ammettere. Un'ultima cosa Stefano, prima ti abbiamo visto in diretta su Sky alla cerimonia di chiusura del mandato di Gianni Petrucci, cos'è uscito da lì? Cosa è uscito? Beh, il largo ai giovani, cioè, ma lo dico perché è stata la prima domanda che ho fatto anche a Pagnozzi, no? Che pare essere il testa di serie numero uno nella successione a Petrucci, e la prima cosa gli ho chiesto, dico scusi, ma lei da quanto tempo è al CONI? Lui mi ha detto, beh, sono entrato nel 73, la prima volta come ho detto stampa, ho detto dico come rispondiamo a quelli che dicono largo ai giovani? E lui mi ha risposto che non si può fare largo ai giovani perché comunque le leggi lo consentono e allora ci teniamo questi ragazzi largo ai giovani negli altri non paesi non esattamente di primo pelo, poi cosa ti devo dire insomma negli altri paesi Stefano, ma diciamo che proprio parlare di grossissimo rinnovamento nel mondo dello sport italiano mi pare un po' difficile. Nel mondo dello sport? Sì, ecco, vabbè, cioè, io stiamo parlando di sport, capito? Qualcuno ovviamente. Ti ha chiesto prima, no? Di parlare soltanto di sport. Ovviamente. Diciamo ovviamente. Che vale a 360 gradi, anzi a 365 gradi, come dice una volta uno. Anche a 400. Sì. Anche a 400. Grazie Stefano, un abbraccio. A presto. A prestissimo. Grazie a Stefano Melocaro da Sky. Chiudiamo con Giuseppe da Ragusa e Giovanni dalla provincia di Pisa velocemente. Giuseppe, buongiorno. Buongiorno, complimenti Dica. Per la trasmissione. Grazie. Mi scuso se per caso si dovesse interrompere la comunicazione, sono con pochissima batteria. Velocemente volevo fare un'osservazione e una considerazione sul discorso pallone d'oro. Mm. Allora, per quanto mi riguarda è giustamente assegnato a Lionel Messi. Perché? Perché capisco anche il discorso di dire deve essere un giocatore che appartiene comunque a una squadra vincente. A parte che il Barcellona ovviamente è una squadra vincente. Che l'anno scorso ha vinto solo la Coppa del Re però. Sì. Però è il pallone d'oro che viene assegnato al giocatore più forte, non alla squadra. Lì sta l'inghippo. Il pallone d'oro dovrebbe essere assegnato al giocatore che ha contribuito a un grande successo della sua squadra, altrimenti, ripeto, il pallone d'oro a Messi lo diamo da qui a 10 anni e non si può discutere mai, magari qualcuno a Cristiano Ronaldo. Però se usciamo da questo concetto, secondo me il pallone d'oro diventa una pagliacciata, qual è in questo momento? Giovanni, provincia di Pisa, velocissimo. Sì, no, io dicevo, sono d'accordo invece con l'ascoltatore perché non ha contribuito a vincere grandi trofei internazionali come negli anni precedenti, ma un giocatore che fa 91 gol o 90 in una stagione, in un anno solo, è fatto sì. Un record. È il più forte, è il più forte del mondo, ma la Spagna ha vinto gli europei, ha vinto i mondiali e il calcio non è il tennis di cui stavamo parlando prima, ma uno sport di squadra. poi c'è il grande equivoco di fondo, per cui questo pallone d'oro comunque è un premio individuale che viene assegnato a un giocatore che rappresenta una squadra. Messi rappresenta una squadra che l'anno scorso non ha vinto nulla, pur essendo meravigliosa. Ci aggiorniamo domani, grazie a Fabio Cantadori in regia, a Franco Piantanini, autore di questo programma. Ciao a tutti. I sogni secondo Cenerentola, i sogni sono desideri.